Gini da Marassi. Francesco. Allora, qui saranno diverse migliaia di manifestanti, probabilmente 10.000, ma non vorrei, anche perché è un continuo affluire e defluire. Ci sono 3.000 o 4.000 che stazionano, che sono più o meno accampati, c'è chi si riposa, c'è chi mangia qualcosa, c'è chi cerca gli amici, c'è chi telefona. Qui sullo spiazzo davanti allo stadio Marassi c'è una carica in questo momento anche a Marassi. Pronto? Sì, racconta. Cosa è successo? C'è stato un fuggi-fuggi, c'è stato un movimento di folla. Allora, non è chiaro, io da qui ho visto solo la gente a scappare. Adesso per fortuna ci sono tutti fermati. Qui il pericolo più grosso è che qualcuno venga travolto dalla folla che scappa, anche perché nessuno si aspetta. Stavo dicendo, la gente adesso sta per terra, si sta riposando, si sta rifocillando, per cui è arrivato con un fulmine a Cesarea, tra l'altro non dalla parte dove la polizia è visibile, ma dalla strada verso il centro. Francesco, fermati un attimo, noi abbiamo Enea Guarinoni che si trova anche lui a Brignole, a Marassi, scusatemi. Enea, che cosa hai visto tu? È una cosa incredibile, ho visto uno schieramento di polizia che ha tirato dei lacrimogeni praticamente a ridosso dei pullman, e quindi c'è una grande confusione. Quindi senza nessun episodio a quel che hai potuto vedere tu che no, li facesse scattare, insomma? Assolutamente no, assolutamente. Avanzano, hanno cominciato a lanciare lacrimogeni, le persone che erano più nella parte esterna del piazzale sono scappate. Adesso tutti si stanno rivestando sugli autobus. Davanti allo stadio, nel piazzale, ci sono 100-150 mezzi, alcuni migliaia. Francesco Giorgini. Sì, ricostruisco quello che è successo prima. Marassi è presidiata dai due lati, io ho visto un lato solo, è presidiata dai due lati da ingenti forze di polizia. A un certo punto, questo mi hanno raccontato, 3 o 4 poliziotti sono avanzati sul ponte, a quanto pare con una specie di super lacrimogeno che non si lancia ma che si lascia esplodere, e l'hanno fatto brillare, e questo ha prodotto una nube molto più densa e molto più imponente di quanto non faccia un lacrimogeno normale. Alcuni di quelli che hanno visto i fatti dicono c'è stata un movimento di un gruppetto, ma loro parlano veramente di un gruppetto, di una quindicina, di una ventina, probabilmente di Black Bloc. In primo momento stavamo tutti tranquilli, poi sono arrivati sempre questi Black Bloc inseguiti dalla polizia, ma la cosa è strana, che a posto di prenderli, cioè di bloccarli, ma gli sparavano i lacrimogeni che arrivavano a noi, manifestanti che dovevamo partire con i pullman o con i treni. C'è una cosa impressionante, cioè tiravano i lacrimogeni e questi andavano a scorazzare per la città, cioè li allontanavano praticamente, li spingevano verso di noi, è allucinante. Sono nello spezzone della Federazione Milanese di Rifondazione Comunista, ci stiamo dirigendo verso la stazione di Brignole, siamo in questo momento in Viale delle Brigate Partigiane, che è quell'enorme viale in stile fascista che porta verso la stazione di Brignole. Quando siamo arrivati la polizia, in chiaro assetto provocatorio, ha incominciato a mettere gli elmetti, gli scudi, a muovere le macchine in modo nervoso, i poliziotti facevano girare il manganello mentre tutti i manifestanti erano con le mani alzate. Qui la stazione sarà di almeno 5-6 mila persone, non ci sono solamente i militanti dei 4 treni speciali di oggi, ma c'è molta più gente, anche perché c'è difficoltà a riuscire a uscire dal dedalo delle viuzze senza essere rastrellati dalla polizia. Insomma, la tensione è molto alta, come potete sentire anche dalle voci, la gente insomma ha risposto in modo pacifico, però si è innervosita rispetto alla provocazione della polizia. Sono qui con noi due giovani che devono andare Palermo. Avete avuto informazioni su un possibile treno su Palermo? No, niente. Forse uno alle 9, però non si sa se cambieranno di orario. Cioè, non si sa nulla ancora. Siamo qui ad aspettare. Ma quanto tempo state aspettando? Aspettiamo qui da mezz'ora, ma da circa 3 ore prima di poterci avvicinare per paura degli scontri con la polizia. Invece voi dovete andare? A Roma. Avete avuto notizia dei treni? Ma sappiamo che ne è partito uno una decina di minuti fa, ma sappiamo adesso quando partirà il prossimo. Sto qua davanti, aspetto, quando chiamano vado. Ecco, allora il dato di adesso mi ha dato una buona notizia, che il treno per Roma dovrebbe partire alle 21.30, alle 21.15 va dentro la stazione. So, tu dove devi andare? Roma, Roma. A Roma anche tu. Quindi hai sentito questa buona notizia? Sì, aspetteremo, cioè, allora, chiedi a lui. Sono bravi comunque, complimenti per l'organizzazione dei treni. Hanno fatto proprio un bel lavoro, complimenti. Stai aspettando il treno anche tu? Sì, ma non so che ora parte. Tu dove sei arrivata? Sei arrivata fino in fondo al corteo o ti sei dovuta fermare? No, ci hanno spaccato in due perché io sono arrivata tardi, ero in fondo e niente, non ho idea di cosa sia successo e siamo poi tornati indietro dopo con quelli di Rifondazione Comunista. Però sono stanchissima. Ti vedo dalla faccia, grazie.